Bologna è stata la prima città in Italia a dotarsi di una rete civica, la seconda in Europa a farlo. In questi anni abbiamo sviluppato il bilancio partecipativo con più di 20.000 persone che hanno votato online, ha cambiato tutto il modo di accedere ai servizi per il pagamento dei tributi e delle multe. Ora si tratta di pensare il futuro, quindi investimenti del PNRR per adattare tutte le tecnologie della città, portare a livello metropolitano, semplificare al massimo e permettere alle imprese e ai cittadini di lavorare meglio grazie alla visione che oggi presentiamo. Una visione che porterà Bologna nel futuro, farà molta formazione e renderà sicuro il comune con anche un corso sulla cyber security che assumerà personale proprio per entrare dentro l'amministrazione comunale. In concreto cosa significa questo piano digitale, se ci può fare qualche esempio? Credo molto nella cyber security, avremo dei tecnici che formati entreranno per evitare hackeraggi nel sistema del comune. Avremo allo stesso modo investimenti per fare ricerca e sviluppo su un gemello digitale della città, cioè una copia digitale di tutta Bologna. Questo ci permetterà di fare delle simulazioni, ad esempio sul traffico, sugli accadimenti meteorologici, la manutenzione del territorio, quindi di risparmiare molte risorse prevedendo nel futuro quello che potrebbe accadere. Come stiamo vedendo dal punto di vista meteorologico, il clima è impazzito, così come il tema dell'inquinamento nella pianura padana ha continui sforamenti. Per noi sarà fondamentale nei prossimi anni gestire la mobilità, ad esempio, delle persone, dando loro informazioni su come si possono muovere nei tempi più semplici e senza trovare la congestione stradale. Quindi queste tecnologie sono fondamentali anche in vista dei cantieri che metteremo in campo, come il tram e il passante autostradale. Possiamo rendere il traffico di Bologna più fluido se usiamo le tecnologie.